e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Nicoletta, buongiorno da Roma. Buongiorno a te. Eccoci, mi manchi qua. Quanto mi manchi. E però devo darti una notiziona proprio di prima mano. Ti dico che Valerio Rocchetti si sta sempre di più riempiendo di tatuaggi, ha libera solamente la faccia, non so come lo ritroveremo alla nostra prossima trasferta romana. Guarda, te lo dico già, io domani già faccio subito allora una puntata per lui, perché chi si copre di tatuaggi poi può controllare, sento un rimbombo, anche il neo, esatto, mi ci ricordo, ci sono degli che strumenti ad hoc, io sento un eco che va. Adesso lo facciamo sistemare, comunque, perché mi faceva vedere tutte le sue braccine ricoperte appunto di questi bei disegni. Ecco, fermatevi alle braccia. Adesso aspetta, guarda, ti dico cosa sta facendo. Non ti è racconto che è tutto live. Ecco, non è che è un po' come la storia della collezione di farfalle. No, vieni a vedere i miei tatuaggi. Tu no. Senti, come va con l'eco? No. Perché è venuto a sistemare un po' di cose in studio. Lo senti ancora? Sì, lo sento, ma non importa. Magari è colpa di Milano, vedi un po' se è il tecnico lì di ma fronte a te che è responsabile. E certo, la colpa è sempre dei tecnici. La Nicola sente ancora l'eco. Perché qua, sai, noi sentiamo rumori strani, c'è chi vede dei fantasmi. Nicoletta, com'è sta storia? Eh sì, è quello che ti volevo chiedere, perché ho detto, non è che sei andata a Roma perché nella tua casa hai notato hai sentito delle strane presenze, come Marcela, il suo marito, nonché presidente del Brasile. Marcela, tra l'altro, anche lei, ex Miss, bellissima. Infatti. Vista? Però, senti, ma parliamo di cose concrete, andiamo alle concretezze. Io oggi parlerò nella parte di denari, oltre che di borsa, fra un po' faremo il punto della settimana finanziaria, che è ricchissima. Parlerò dello statuto del lavoro autonomo e quindi di tutti i cambiamenti in arrivo importanti, positivi per il popolo delle partite IVA, 2 milioni di lavoratori in Italia. Tu invece che cosa hai? Allora, tu sei seduta, vero? Perché non ti vedo, ma ti immagino. Allora, per favore, puoi offrirti volontaria per un piccolo test? Ok. Allora, stendi il ginocchio, le fai uno alla volta e poi ritorna. Fletti, stendi e fletti. E poi fammi sapere che cosa succede. Se va tutto bene. Al momento è tutto a posto. Allora puoi chiamare anche tu l'800 240024. Se invece i nostri amici da casa sentono che tirano, scricchiolano, pungono, avvertito un piccolo dolore, cercate di capire nel caso se nella parte anteriore o posteriore del ginocchio, perché vi segnalo che a Cuore Denari arriverà un grandissimo esperto, il professor D'Anchise. Tanto per dirtene una, è stato lui a effettuare il primo trapianto di menisco in Italia, quindi siete in buone mani. Chiamateci e parleremo anche invece di un controllo della vista molto importante, perché siamo nella settimana del glaucoma. Benissimo. Posso alzare un po' il volume della mia cuffia? No, niente, non posso. È il fantasma che ti fa lo scherzetto. Posso farcela? Eccoci qua. Allora, sì, partiamo con la... Non stavo chiedendo a Valerio se potevo alzare il volume delle cuffie, ma naturalmente con il microfono spento stavo facendo tutto questo ragionamento. Era acceso, non lo so, acceso. Basta. È che qua da Roma siamo un po' in confusione, sai. Basta con questo Valerio, il tatuaggio, è Valerio di qua, e Valerio di là, torna a casa. È gelosa. Sentiamo se è geloso Pietro Calì, consulente finanziario di Copernico Sim, che salutiamo, buongiorno. Grazie, buongiorno Deborah, buongiorno a voi. Parliamo naturalmente di mercati finanziari con Calì, perché diamo un'occhiata a come si sta aprendo questa settimana in borsa. Abbiamo un quadro di movimento relativo fra i listini continentali: Parigi più 0,04%, Francoforte più 0,04%. 7, Milano più 0,12% sulle FTSE MIB, titoli che stanno partendo bene: Saipem più 2, Banco BPM più 1,39, Atlantia più 1,38, Banca Mediolanum in rialzo di un punto, mentre tra i cali più consistenti segnaliamo quello di Azimut che perde quasi 2 punti, BPR Banca meno 1,28, meno 0,7% per Unipol, Mediobanca meno 0,6% per Eni. Calì, allora cominciamo subito con il ricordare che abbiamo avuto la disoccupazione americana venerdì scorso, e dopo questo dato chiaramente ormai la comunità finanziaria è assolutamente convinta che questa settimana la Banca Centrale Americana ritoccherà di nuovo verso l'alto i tassi di interesse. Sarà così? Sì, dunque il dato sull'occupazione di venerdì è stato un assist, un perfetto, no, per la Yellen, per aumentare di quel quarto di punto i tassi di interesse. Molto probabilmente sarà così, o al meglio tutti i mercati prezzano questo evento. Secondo me è un'ottima notizia, perché finalmente diciamo che il medico sta togliendo le medicine a un mercato che sembra dare sempre più soddisfazioni. Ora, Trump ha fissato un target del 4% come PIL, che è molto molto ambizioso, però sicuramente la Yellen dovrà comunque togliere un po' di semplicità al mercato e alle politiche monetarie, affinché comunque l'economia americana si possa risollevare con le proprie forze, diciamo così. Questo tipo di situazione però getta benzina sul dollaro, che come sappiamo può creare qualche problema a Trump, perché toglie un dollaro molto forte, toglie competitività diciamo all'economia americana. Infatti lo si vede già nel rapporto euro-dollaro, perché l'euro nelle ultime ore è schizzato a 1,0670, almeno il cross in questo momento. Lei diceva gettare benzina sul fuoco, allora parliamo proprio di titoli legati all'energia, al petrolio, perché negli ultimi giorni abbiamo avuto anche questa discesa dirompente delle quotazioni internazionali, soprattutto sul WTI, sul greggio americano, che anche stamattina è intorno ai $48 al barile, il Brent rimane sopra i 50. Calì. Esatto, sì, il petrolio ha subito una flessione molto importante dovuta alle scorte sempre molto molto elevate. Ecco, vediamo che comunque i titoli italiani stanno cercando di reagire bene, questa mattina Saipem è cresciuta, perché comunque a questi prezzi si fanno degli ottimi acquisti sul settore petrolifero. Devo dire anche che Eni ha venduto qualche parte del suo giacimento in Mozambico, si parlava di 2,8 miliardi a ExxonMobil, questo per far fronte ovviamente alla bassa redditività dovuta a un petrolio che comunque con difficoltà può restituire performance a questi titoli. Ovviamente il risvolto positivo che il petrolio basso permette di entrare appunto in questi titoli con prezzi davvero molto vantaggiosi. Tra l'altro, in tutto questo gran dedicare attenzione alle attività delle banche centrali, naturalmente ci siamo non tanto, non, però un pochino forse abbiamo lasciato da parte il tema politico e il suo effetto sull'andamento di borsa, perché comincia il grande round elettorale di cui siamo tanto preoccupati, che naturalmente ci vedrà come appuntamenti più importanti le elezioni francesi di metà aprile e poi quelle tedesche a settembre, ma questa settimana intanto gli apripista lo faranno appunto gli olandesi. Calì, il mercato è preoccupato per le elezioni del 15? Ma il mercato non sembra molto preoccupato, perché comunque la vittoria di Wilders, che sarebbe il principale anti-europeista dei Paesi Bassi e delle possibili elezioni olandesi, sembra appunto abbastanza indietro rispetto al suo avversario. Secondo me il mercato è molto più concentrato sulle vicende delle banche centrali e ovviamente per quanto riguarda le elezioni, a 23 aprile avremo le elezioni francesi che sicuramente catalizzeranno tutte le attenzioni. Secondo me passerà comunque appunto in secondo piano questo tipo di notizia. Intanto Mario Draghi oggi pronuncerà un nuovo discorso a Francoforte, a meno di una settimana dall'ultima conferenza della Banca Centrale Europea seguita al Consiglio Direttivo del mese di marzo. Banche centrali, dicevamo, sempre chiaramente sotto i riflettori, ma oggi c'è anche un altro importante appuntamento con il Tesoro italiano che ritorna sul mercato. Ci sono delle emissioni corpose, Calì? Sì, si parla di emissioni che possono andare dai 7,25 ai 9 miliardi appunto sul mercato italiano. BTP saranno scadenza 3, 7, 15 anni. Ovviamente il mercato obbligazionario è in una fase molto molto complessa. Gli investitori italiani sono abituati alla sicurezza dei BTP. Ovviamente questo è un trend trentennale che è destinato a calare, quindi io consiglio di guardare molto più spesso magari emissioni a tasso variabile, quindi che possono diciamo seguire l'andamento dei tassi e non mettere in difficoltà gli investitori obbligazionari, che comunque sono abituati alla sicurezza e che purtroppo vedranno i prezzi fisiologicamente scendere. Continuare a scendere. Allora, esatto. Altri temi di Piazza Affari, possiamo ricordare anche che questa settimana è una settimana ricca di consigli di amministrazione, conti e quant'altro. Esatto, sì, abbiamo oggi Unicredit con il suo CDA, Unicredit che viene da un piano molto molto ambizioso e da un aumento di capitale che comunque è andato a buon fine, nonostante le critiche e i problemi di inizio. E, oltretutto domani abbiamo Salvatore Ferragamo che presenta i conti, fino ad arrivare a mercoledì con Generali e Finmeccanica Leonardo, anch'essa viene da un periodo difficile, sappiamo che il suo amministratore delegato viene da un problema di carattere tecnico-amministrativo. però secondo me tutto il mercato italiano è abbastanza sottovalutato rispetto agli altri mercati europei. Grazie, quindi una settimana ricca di impegni per le società quotate, quantomeno per le big, quindi terremo sotto stretta osservazione tutti questi appuntamenti. Grazie a Pietro Calì, segnalo solo... Grazie a voi. Una notizia che è arrivata poco fa da Borsa Italiana perché lancia il segmento dedicato ai green e social bonds, alle obbligazioni green, verdi e social, per offrire appunto agli investitori istituzionali e retail, quindi piccoli risparmiatori, la possibilità di così puntare su strumenti cui proventi vengono destinati al finanziamento di progetti con specifici benefici o impatti di natura ambientale e sociale. La prima obbligazione green che parte oggi è tra le più grandi, pensate, a livello europeo, è emessa da Enel Finance, una operazione da 1 miliardo e 250 milioni di euro che proporrà agli investitori cedole annuali dell'1%. Quindi una notizia che è proprio freschissima. Nicoletta, che ti è piaciuta? Molto. Sai che le cose che mi racconti tu mi piacciono sempre, perché soprattutto le capisco, stranamente, meno perché male. Sei brava. Nico, torna grazie. Presto. Torno mercoledì con voi, ma sarò sempre comunque in diretta da qua. Intanto andiamo a sentire un po' se il traffico mi agevola le cose. Dai. Tra poco. Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. Vi presenta Cuore e denari. E siamo tornate, Deborah a Roma, Nico a Milano, e lunedì si pianifica di norma la settimana. Allora io vi segnalo un appuntamento da non perdere. Mettetelo in agenda, avete una settimana di tempo per organizzarvi, quindi dovreste farcela, perché dal 12 al 18 marzo torna la settimana mondiale del glaucoma e tornano in città, in 90 città italiane, i gazebo informativi e tanti check-up oculistici gratuiti. Tutte le iniziative sono volute e organizzate dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, IAPB Italia Onlus, in collaborazione naturalmente con le sezioni locali dell'Unione Italiana Cieche e Ipovedenti. Troverete tutti i link nelle nostre pagine. Testimonial d'eccezione per quest'anno è Ricky Tognazzi, che naturalmente salutiamo, ma soprattutto salutiamo e diamo il benvenuto alla nostra ospite, la dottoressa Elisabetta Miserocchi. Buongiorno. Buongiorno. Medico oculista presso il servizio UVIT all'ospedale San Raffaele. Intanto grazie per essere con noi. Giochiamoci questi pochi minuti per convincere i nostri amici da casa a controllare la loro vista anche in assenza di sintomi, perché alcune malattie, e il glaucoma è una di queste, nelle fasi iniziali non danno alcun segno, ma se non vengono diagnosticate e quindi adeguatamente curate, progressivamente e inesorabilmente possono portare danni molto seri. Ci sono persone che hanno perso la vista perché per il glaucoma, che non a caso viene anche detto il ladro silenzioso della vista. Tra l'altro, solo in Italia, ho letto, ci sono circa 1 milione le persone affette da questa malattia del visiva, ma una persona su due non sa di esserne affetta. Allora, dottoressa, ci aiuti lei, partiamo da qui. Sì, la prevenzione del glaucoma nasce soprattutto dalle visite oculistiche complete che i pazienti devono effettuare, perché come ha detto lei, Nicoletta, la pressione elevata dell'occhio non dà sintomi e quindi il paziente si accorge solo tardivamente di non vedere quando il campo visivo del paziente, cioè quando il paziente è totalmente cieco o ha delle menomazioni del campo visivo. Ecco, quindi lei ha parlato, mi scusi dottoressa, di pressione degli occhi, la pressione oculare, quindi che dobbiamo misurare ed è la responsabile di questo danno al nervo ottico che poi è la causa del glaucoma. Sì, perché la pressione oculare praticamente... se è elevata provoca dei danni al nervo ottico, quindi alle fibre nervose del nervo ottico, che quindi poi rimangono danneggiate e non si rigenerano, e per questo motivo portano a riduzione della vista e quindi a cecità. Non ci sono dei segnali che possono così farci venire un pochino il sospetto? Lei ha accennato a una riduzione del campo visivo, ma quando mi accorgo che il mio campo visivo si è ristretto, forse è tardi? È tardi, non ci sono segnali, i pazienti a volte si accorgono perché ad esempio quando guidano e cercano di guardare nello specchietto retrovisore si accorgono che non vedono magari la macchina o le macchine che arrivano nello specchietto retrovisore, però generalmente il glaucoma cronico ad angolo aperto, che è quello più frequente, non dà sintomi, quindi per quello è importante fare le visite accurate con una misurazione adeguata della pressione oculare. È un esame fastidioso, cioè in qualche modo un po' doloroso, lungo, oppure è come quello per la misurazione della pressione? La pressione dell'occhio è assolutamente non dolorosa, magari un po' fastidiosa, però si mettono delle goccine di anestetico nell'occhio del paziente e poi con uno strumento che si appoggia delicatamente alla cornea, quindi alla parte anteriore dell'occhio del paziente, si misura la pressione, una cosa che dura pochissimi secondi. Dottoressa, ci sono delle... Allora, il messaggio è ci sono dei controlli da fare, controlliamoci anche in assenza di sintomi. Ci sono però delle persone che dovrebbero seguire con maggiore attenzione questa indicazione. Ci sono delle persone che hanno magari un profilo di rischio più elevato rispetto ad altri, ad esempio? Beh, a partire da che età? Persone, allora, dopo i 40 anni sicuramente una visita oculistica completa con misurazione del tono oculare e valutazione del fondo oculare, quindi con le pupille dilatate, quindi non solo l'esame della vista, è fondamentale. E le persone più a rischio anche per il glaucoma sono quelle che presentano magari dei familiari che hanno già avuto glaucoma, quindi a maggior ragione i familiari di gente di pazienti con glaucoma devono farsi una visita oculistica completa. Dottoressa, una volta che il glaucoma è stato diagnosticato, si deve poi curare tutta la vita. Per fortuna esistono varie terapie, anche se tutti i trattamenti presentano sia vantaggi che inconvenienti, e quindi è fondamentale trovare la soluzione migliore per il proprio caso, naturalmente insieme all'oculista. Quali terapie sono disponibili e ci sono stati dei passi avanti? Beh, passi avanti ce ne sono stati, la prima linea terapeutica sono le gocce, quindi il paziente mette dei colliri che abbassano la pressione dell'occhio, esistono varie classi di colliri più o meno recenti e più o meno potenti che vanno poi coordinate con l'oculista specialista del glaucoma, quindi si inizia con un tipo di gocce, poi si passa a un altro tipo di gocce, se la pressione non riesce ad essere controllata soltanto con le gocce, si può passare a una terapia laser, e se la terapia laser, anche questa, non è efficace, l'ultimo stadio della terapia del glaucoma è la terapia chirurgica. Dottoressa Miserocchi, ma la domanda arriva anche via WhatsApp al 349-238-6666. C'è una relazione tra la pressione oculare e quella invece che misuriamo, la pressione del sangue? Una persona ipertesa può avere maggiori possibilità di avere una pressione oculare alta, o sono due cose assolutamente diverse? Allora, quindi stiamo tranquilli, se no chiamavamo all'appello anche le persone in trattamento per l'ipertensione. Ci scrive un ascoltatore, se non so se è un'affermazione o una domanda, se la cefalea notturna può essere un segno di glaucoma. Ma allora, la cefalea notturna o la cefalea quando c'è poca luce può essere un segno di un determinato tipo di glaucoma, che è il glaucoma ad angolo stretto, però non sempre si correla a questo tipo di glaucoma. Allora, dottoressa Miserocchi, lei lo sa bene, tutte le volte che parliamo di disturbi della vista arrivano le domande anche su mosche volanti, ragnetti, vermicelli, che avvertiamo nel nostro campo visivo, specie dopo che siamo stati alla luce, magari poi osserviamo una parete bianca o ci muoviamo. Ci possono essere delle relazioni con il nervo ottico e con magari possono rappresentare dei segni, dei problemi per l'insorgenza del glaucoma, o anche in questo caso possiamo stare tranquilli, si tratta di tutt'altra cosa? No, le mosche volanti si riferiscono soprattutto al corpo vitreo, che è quella gelatina che sta all'interno dell'occhio, che quindi non è uno dei sintomi correlabili alla pressione alta dell'occhio, è piuttosto un problema di vitreo o di retina. Quindi su quello poi torneremo naturalmente sulla retina, sui lampi, sulle le luci che a volte alcune persone vedono, che sono un segnale sicuramente da tenere sotto controllo. Ripeto ai nostri amici che ci stanno seguendo da casa la possibilità di effettuare delle visite oculistiche gratuite, ma soprattutto anche di ritirare del materiale informativo sul glaucoma. La settimana dura fino al 18 marzo, 90 città italiane hanno aderito a questa iniziativa che è stata organizzata dalla IAPB con la collaborazione dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Tutte le informazioni le trovate sul nostro sito. Dottoressa Miserocchi, la ringraziamo per essere stata con noi. Grazie, arrivederci, buona giornata. Buona giornata, quindi se avete superato i 40 anni, se avete casi in famiglia, misurazione della pressione oculare può davvero cambiare, fare la differenza. Deborah, dobbiamo farla anche io. Pronti? E te. Direi di sì, che male non ci fa. Male non ci fa. Qualche controllino ogni tanto, perché non vorrei qua che il ciabattino andasse in giro con le scarpe rotte come al solito. Eccola lì, intanto voglio ricordare anche ai nostri amici che continua marzo, il mese della pancia, per Cuore Bene. Denari, quindi potete chiamarci, potete scrivere alla nostra mail a salute@radio24.it per avere delle informazioni, delle risposte dei nostri esperti, che sono gli esperti del Humanitas di Milano. Il nostro esperto di riferimento per questo mese è il professor Silvio Danese. Vi ho detto tutto e Bene. Vi devo dire che andiamo a sentire. Io ti dico intanto che Claudio Carpentieri della CNA è già arrivato qui in studio da noi a Roma, quindi lo sentiremo per fortuna per la prima volta dalla sua viva voce, non al telefono, quindi a tra poco. Bene, a tra poco. A tra poco. Ascolto Gianluca perché smettiamola con questo pippamentalismo radicale. Perché parla pure dei Roni. Perché non sono un'anima in pena, sono un'anima in piena. Io ascolto Gianluca perché, guarda, sono 3 giorni che provo a chiamare, non me lo ricordo neanche più. Perché la vita è una giostra che va. Perché la libertà d'espressione è bella, ma non ci vivrei. Ascolto Gianluca perché in bicicletta non sono lento, sono diversamente veloce. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Italia Legno e Energia, Fiera di Arezzo, 24-26 marzo. Cuore e denari. Perché quando ti arriva, non aver scatti d'ira. Perché quando ti arriva, grida con me viva l'IVA. F24 l'assicurazione il pollo. Non eccoci qua, termini con i quali molti di voi probabilmente hanno a che fare tutti i giorni. Partita IVA, il versamento dell'IVA, l'F24. Allora, perché abbiamo introdotto oggi questo nostro approfondimento di denari con questa musica, con questa colonna sonora? Perché proprio pochi giorni fa l'Aula della Camera ha dato il via libera al disegno di legge per la tutela del lavoro autonomo, che contiene delle misure molto importanti. Intanto per favorire la flessibilità nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. Abbiamo tutto il mondo dello smart working di cui abbiamo tante volte parlato. E poi, molto importante, ci sono tutte le novità riguardanti il nuovo statuto del lavoro autonomo, grazie al quale vengono finalmente riconosciute più tutele alle partite IVA, da sempre oggetto di forti discriminazioni in tema previdenziale, in caso di malattia, nel campo degli ammortizzatori sociali e anche in campo fiscale. Allora, noi oggi proveremo a raccontarvi le novità. Sono anche un po' complicate. Ne stavamo discutendo adesso proprio a microfoni spenti con il nostro ospite in studio e ci sarà sicuramente modo nelle prossime settimane di tornarne a parlare. Intanto vi presento, è ospite qui nostro degli studi di Roma, Claudio Carpentieri, responsabile dell'ufficio politiche fiscali della CNA. Benvenuto, grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Finalmente ci incontriamo di persona dopo averlo tante volte scomodato telefonicamente, mentre lo scomodiamo telefonicamente. Angelo Deiana, presidente di Confassociazioni, la Confederazione delle Associazioni Professionali. Presidente, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Ottimamente collegato telefonicamente. Partite IVA all'ascolto, se volete siamo qua per voi oggi all'800 24 00 24, ricordando che il provvedimento deve rifare già deve rifare, immagino, un nuovo passaggio a Palazzo Madama al Senato per il via libera definitivo. Speriamo appunto che non vengano effettuate delle nuove modifiche, anche se degli aggiustamenti sono necessari. Lo dicevamo poco fa appunto con Carpentieri, ed cercheremo di capire quali. Allora, Carpentieri, intanto magari subito un commento generale su tutto questo nuovo impianto, sul quale voi, così come rappresentante dell'altra organizzazione che fra un po', con il quale fra un po' discuteremo appunto, avete tanto combattuto per portare a casa questo risultato, lo statuto del lavoro autonomo riguarda almeno 2 milioni di partite IVA e collaboratori, è una cifra attendibile, definitiva, o insomma è un mondo anche più complicato, più complesso, più nutrito numericamente parlando? No, i numeri sono quelli, il provvedimento va nella direzione giusta, abbiamo anche sottolineato con un comunicato stampa, quindi lo condividiamo in tutto e per tutto, anche perché nell'ultima versione approvata dà un riconoscimento vero non solo alle professioni ordinistiche ma anche alle professioni non ordinistiche sostanzialmente, quindi allarga queste possibilità e anche i termini di efficacia della legge 4 del 2013, che è quella che ha riconosciuto finalmente le attività non ordinistiche. Appunto. Le attività non ordinistiche e ordinistiche, spieghiamo ai nostri ascoltatori che cosa intendiamo con questo mondo, anche qua devo dire che come dire, il gergo generalmente è anche molto complesso, però quando parliamo di chi appartiene ad una professione ordinistica appartiene ad un ordine professionale, come la sottoscritta che appartiene al complesso mondo dell'ordine dei giornalisti. Assolutamente sì, perché quello che di cui anche parliamo, se non rientro ovviamente nelle tutele dello statuto del lavoro autonomo perché sono una dipendente, è solamente per fare una distinzione, certo, sul tema dell'ordinistico, ecco. Certo, assolutamente è così, infatti questi 2 milioni devono essere presi anche in ragione di non solo quelli che lavorano a partita IVA ma anche quelli che non lavorano a partita IVA ma lavorano come collaborazione, quindi se estendiamo il mondo dei collaboratori che hanno monocommittente o pluricommittente, che sostanzialmente sono i professionisti ma inquadrano il loro rapporto nella collaborazione, arriviamo a quei numeri, anzi forse di più. Allora, la CNA, la Confederazione Nazionale degli Artigiani, mentre Confassociazioni, Deiana, voi che cosa fate, chi siete, perché anche voi avete combattuto per portare a casa il risultato dello Statuto del Lavoro Autonomo? Noi abbiamo combattuto in maniera molto importante perché noi rappresentiamo in questo momento 275 associazioni professionali, di quelle professioni di cui si parlava prima, cioè di quelle che non sono regolate da ordini e collegi professionali. Abbiamo più di 466.000 non ordiniste, quindi. Esatto. Abbiamo più di 466.000 iscritti e di questi 466.000 iscritti più del 50% sono partite IVA, e quindi per noi era una battaglia di orizzonte strategica quella dello Statuto del Lavoro Autonomo. 800 24 00 24, naturalmente il numero verde per gli ascoltatori è sempre disponibile. Sappiamo che tanti lavoratori autonomi sono in casa a svolgere le loro mansioni professionali autonome, ci ascoltano appunto sempre volentieri, e sono professionalità molto spesso frustrate proprio per tutto ciò che mancava fino a questo momento e che magari adesso lo Statuto del Lavoro Autonomo appunto va a coprire in termini di nuove tutele. Ce ne sono molte molto importanti, a partire magari Deiana, comincio con lei velocemente, poi con Carpentieri vado nel mondo fiscale, che è quello forse più complesso. Ma Deiana, volevo cominciare con lei proprio con le tutele per quello che riguarda il mondo degli ammortizzatori sociali. Da questo provvedimento in avanti ai lavoratori autonomi verrà riconosciuta l'indennità di disoccupazione che non c'era prima, almeno secondo questo formato, la tutela della gravidanza, del momento di malattia e di infortuni. Insomma, quali sono i punti più importanti da questo punto di vista del nuovo pacchetto? Allora, in sintesi, questo provvedimento sostanzialmente che cosa fa? Tende a compensare quella che era la simmetria prevista nella normativa fra lavoro dipendente e lavoro autonomo. Il lavoro dipendente ha sempre avuto una serie di tutele importanti, il lavoro autonomo era lasciato un pochino a se stesso. Facciamo un esempio concreto per far capire i radioascoltatori. Una professionista al lavoro autonomo è vero che era tutelata in termini di maternità quando rimaneva incinta dall'INPS, ma aveva l'obbligo per i 7 mesi della diciamo così copertura INPS di astensione obbligatoria dall'incontro con qualsiasi cliente. Ora è chiaro che se uno è un professionista, se uno è un lavoratore autonomo che ha un suo tra virgolette pacchetto clienti, star fuori dal mercato per 7 mesi vuol dire essere, fra virgolette, messo ai margini del mercato. Ah sì, rientrarci dopo 2 anni praticamente, ripartire da zero quasi completamente. Ripartire da zero, perché c'era questo obbligo dell'astensione obbligatoria che naturalmente era copiato da quello del lavoro dipendente. Il DDL del Conte, cioè il Jobs Act del lavoro autonomo, per esempio, da questo punto di vista elimina il processo relativo all'astensione obbligatoria e quindi sostanzialmente tende a costruire un modello che da una parte chiaramente tutela la donna e quindi tutto il tema della maternità, ma dall'altra parte non elimina la possibilità per il professionista di stare effettivamente, continuare a stare sul mercato. Primo esempio. Secondo esempio, importantissimo, il tema degli ammortizzatori sociali. Prima i lavoratori autonomi non avevano alcun ammortizzatore sociale, così come era previsto per il lavoro dipendente. Adesso la discolla, cioè l'indennità di disoccupazione per tutta una serie di soggetti, collaboratori a progetto, eccetera, eccetera, diventa strutturale e a fronte di un piccolo aumento dell'aliquota contributiva è allargata anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa studio. Il tema importante, Diana, sarà capire come e quando spetterà questa indennità di disoccupazione, soprattutto come un professionista appunto dovrà dimostrare di essere una condizione tale da averne diritto, quindi se in qualche maniera poi quel mondo lì che viene a complicarsi, perché non è che in automatico arriva un assegno, un ammortizzatore sociale se tu non dimostri di essere in una condizione oggettiva di difficoltà professionale. Lì sarà semplice il passaggio o no? No, io credo di no, però la cosa importante è aver messo un piede in campo, diciamolo molto concretamente, nel senso che è chiaro che ci saranno dei fenomeni di opacità sui bordi di questo confine, però la cosa importante è aver cominciato a pensare che è vero che abbiamo concluso l'era novecentesca del posto fisso, ma dobbiamo però entrare in una nuova logica che non è quella dell'iperframmentazione del lavoro, quindi dipendenti contro gli autonomi, giovani contro anziani e via dicendo, ma diciamo un orizzonte di continuità professionale per cui la vita lavorativa di ciascuno di noi può assumere diverse forme nel corso del tempo, certo. E queste forme, sia dal punto di vista degli ammortizzatori sociali, sia dal punto di vista previdenziale, devono avere una sorta di continuità che permette di passare da una forma all'altra subendo meno danni possibile. Grazie Diana, allora, per essere stato con noi, per averci spiegato questa parte. Gli ultimi 10 minuti li andiamo subito ad approfondire sul terreno fiscale, che è un terreno molto complicato. Carpentieri, allora, un po' l'ABC delle nuove disposizioni fiscali contenute nel Jobs Act professioni, nello Statuto del Lavoro Autonomo, chiamiamo tutto questo nuovo impianto come vogliamo. Ci sono prevalentemente buone notizie o anche qua abbiamo un po' complicato di nuovo la vita al lavoro autonomo? No, ci sono buone notizie. Per far capire cosa è stato fatto, si è agito in primo luogo nella deducibilità ai fini della determinazione del reddito delle spese di vitto e alloggio nei casi di esecuzione di incarichi professionali. Siamo partiti da una situazione originaria nel quale pazzesca, in cui le spese di vitto e alloggio erano tassate in capo al lavoratore autonomo perché riconosciute, no, nel certo. prezzo della prestazione. Se io vado a fare una prestazione professionale mi pago vitto e alloggio, esattamente. Perfetto. Poi ci venivo pure tassato sopra, non potevo escludere questa parte perché avevo la deducibilità solamente limitata e solamente a un certo importo del fatturato, che se io lavoravo solamente con riferimento a trasferte, io praticamente il professionista era tassato 2 volte. Certo. Siamo arrivati a una situazione dopo il decreto sulla legge di bilancio, il decreto collegato, nel quale era possibile, come dire, dire che quelle spese non erano compensi in natura, quindi io non le deducevo ma neanche le tassavo, erano solamente un'operazione finanziaria, ma la fattura doveva essere solamente intestata al committente. Era una complicazione. Chiaro. Oggettivamente. Certo. Ecco, che cosa si fa con lo statuto? Si dice, se le spese sono sostenute dal professionista e vengono addebitate analiticamente in fattura, quindi spese di vitto e alloggio, a questo punto il soggetto le tassa ma le deduce completamente, non ha più nessun limite di deducibilità. Al pari, se invece le sostiene il committente per conto del professionista, in quel caso rimangono un'operazione finanziaria, certo. Quindi non sono tassate e neanche sono deducibili. In che misura questo, le deduce? Nel passato quelle che stanno fuori da questa regola sono deducibili nel 75% nei limiti del 2% del fatturato. Quindi ecco, proprio quelli che lavorano prevalentemente con le trasferte hanno un problema risolto. Certo. Il punto sono le spese di viaggio e trasporto. Nella situazione esatto, attuale abbiamo trovato il buco nero della norma. Nella situazione attuale non vengono più citate. L'auspicio che, siccome non sono più citate sostanzialmente né nei limiti della deducibilità né ovviamente nel fatto che non costituiscono compensi in natura, l'auspicio è che l'Agenzia delle Entrate le interpreti come deducibili completamente, certo, perché vanno nei criteri generali di inerenza. Quindi che non sia stata una svista, ma come dire, ma proprio una mancanza voluta, proprio perché è rientrante, come diceva lei. Nel principio generale, certo, che se non è no limitazioni alle deducibilità, io deduco tutto. Senta, altro aspetto molto importante, anche i liberi professionisti, i lavoratori autonomi si formano, frequentano corsi di formazione master, anche in questo caso spesse molto, molto spesso appunto sostenute, senza però nessuna agevolazione di carattere fiscale. Qua invece a quanto pare ne abbiamo con lo siamo statuto arrivati, del lavoro autonomo. Siamo arrivati a questa considerazione, che prima erano deducibili in modo anche qui spiegabile al 50%, perché se io faccio dei master, faccio dei corsi di formazione, io che fa? Prima mi formo e secondo non posso lavorare, addirittura un costo esatto, opportunità anche, no? Quindi però le potevo dedurre al 50%, adesso spese di formazione in generale, master, corsi di aggiornamento, sono deducibili al 100% sebbene nel limite di 10.000 euro annui, ma considerando le spese insomma un limite abbastanza congruo, ma addirittura vengono riconosciute deducibili al 100% anche le spese sostenute per la certificazione di competenze che proprio citate nella legge 4 consentono di avere più credibilità nell'esecuzione specialmente degli incarichi non ordinistici, per capirci, certo, no? Perché non c'è un ordine dietro che certifica. L'ultima cosa che ha la deducibilità piena e qui neanche senza nessun limite sono proprio quelle spese che si sostengono per avere un welfare dell'autonomo. Ah. E cioè io pago un'assicurazione, pago delle somme. Bravo. Per avere diritto a un ammortizzatore sociale in caso io non potessi svolgere l'attività lavorativa per qualsiasi motivo, allora quelle somme sono deducibili completamente e non hanno una deducibilità limitata al 50%. Questo è un po' il quadro generale. Certo, senta, che tipo di se ve ne fanno in questo momento domande vi stanno ponendo i vostri associati rispetto a tutte queste novità? Secondo lei quali sono proprio gli ambiti che sono stati maggiormente tutelati, per i quali si sentiva maggiormente la mancanza? Insomma, i vostri associati che cosa dicono rispetto a tutto questo? Ma è il pacchetto, ci credono, che, non ci credono? Il pacchetto complessivamente, come ho detto, piace. Quindi poi voglio dire, si può sempre migliorare, no? Vabbè, perché come tutto. In questo provvedimento manca assolutamente la chiarezza rispetto ai soggetti che non devono pagare IRAP. Cioè il discorso è che l'autonomo senza autonomo organizzazione, perdonatemi il gioco di parole, non dovrebbe pagare IRAP, le cassazioni gli danno ragione, il problema è che c'è ancora un'incertezza rispetto a come l'Agenzia delle Entrate interpreta la propria attività. Quindi una definizione chiara di autonoma organizzazione per l'autonomo semplificava ulteriormente, certo, questa. Non so se abbiamo ancora Deiana in collegamento telefonico. Ora. C'è ancora? C'è no, ancora. Perché mi pare che ci sia anche un tema importante in questa nuova norma legata a tutti quei professionisti che eseguono dei lavori per magari la pubblica amministrazione e subiscono ritardi nei pagamenti. Mi sbaglio o c'è qualche cosa di importante anche per questo gruppo? No, c'è assolutamente qualcosa di importante, perché si fissa a 60 giorni, diciamo, il limite massimo contrattualizzabile nell'ambito del quale effettuare i pagamenti, e quindi questo vale, fra virgolette, non soltanto per la pubblica amministrazione, ma per tutti i contratti di lavoro professionale che il lavoratore viene a concludere con soggetti privati o pubblici. Quindi da questo punto di vista, il fatto che il lavoratore autonomo, la partita IVA, abbia una ragionevole, tra virgolette, certezza di essere pagato entro i 90 giorni, chiaramente rende merito di una progettazione professionale molto diversa rispetto a quello che era la fase attuale. Allora, c'è una domanda di Antimo dalla provincia di Rimini, vediamo se riusciamo a farla, ci rimangono ancora un paio di minuti di tempo prima di passare la linea alla parte di cuore. Antimo, buongiorno, vediamo buongiorno. Se riusciamo a risponderle. Buongiorno. Ci dica. Dunque, io dopo aver lavorato 22 anni, 23 anni in un'azienda edile, qui a Rimini le aziende edile purtroppo hanno chiuso tutte, sono stato costretto a aprire una posizione IVA. E sono geometra, non appartengo a nessun ordine perché ovviamente prima lavorando da dipendente in un'impresa non mi serviva appartenire a un ordine. Diventare adesso, ordinista, come abbiamo ordinista. Imparato stamattina adesso anche questo concetto, Antimo. Ho aperto una partita IVA come consulente tecnico certo. E ho aderito alla contabilità dei minimi. A questo punto mi chiedo, in questa contabilità dei minimi va bene il 5% dell'IRPEF, però paghiamo un'IMPS esageratissima che è quasi il 30%. E insomma, lei dice per noi cambia qualcosa per il mondo dei minimi, del regime minimo? Carpentieri, svolta la testa, non abbiamo buone notizie perché già sono agevolati almeno nel concetto del fisco. Perché praticamente i minimi sono quelli che determinano il reddito secondo i criteri di cassa e secondo i criteri individuati della stessa legislazione dei minimi che vanno al di là del TUIR. Quindi per le spese a utilizzo promiscuo c'è la deducibilità al 50% in generale. Se però, a mio avviso, si tratta di spese che non sono ad uso promiscuo ma sono esclusivamente per l'esecuzione dell'incarico, io continuerei a dedurre al 100% certo. Perché lì è un criterio generale che prescinde dal TUIR. Quello che è stato fatto nel documento del Job Act del lavoro autonomo è un intervento sul TUIR, sulle partite IVA, su quello che vanno a sostitutiva, che sono i forfettari, che sono i minimi, hanno regole proprie e queste non vengono toccate. Ma i principi generali di deducibilità delle somme rimangono. Certo. Allora stiamo andando verso la chiusura di questa parte della trasmissione, abbiamo detto tutto, Carpentieri almeno a bocce ferme sulla base di quello che sappiamo fino a questo momento, ammettendo che naturalmente il Senato passi tutto l'impianto così come la Camera gliel'ha consegnato. E Deiana, un ultimo commento da parte sua? Ma il commento che si può fare anche in relazione a quanto ci diceva l'ascoltatore è che chiaramente l'indennità che previdenziale che gli autonomi pagano alla gestione separata dell'INPS è più alta, però diciamo che si sono fatti dei grandi passi in avanti da questo punto di vista con l'ultima legge di bilancio che l'ha abbassata dal 27 al 25%, nel mentre doveva salire al 29 e poi addirittura al 33. Quindi diciamo che l'attenzione del governo sul tema e del Parlamento sul tema delle partite IVA è un'attenzione crescente in senso positivo. E noi l'appoggiamo e voi naturalmente lo so che state dando battaglia e non abbassate sicuramente la guardia. Grazie ad Angelo Deiana, grazie a Claudio Carpentieri per essere stati con noi. Velocemente la borsa, poi ridiamo la linea a Milano per la seconda parte della trasmissione. Attenzione alle nostre ginocchia, tra pochissimo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Ecco qua, siamo tornati. Allora, fuori le ginocchia, tonde, ossute, morbide, cicciottelle, grandi, piccole, dritte o storte, giovani o vecchie, flaccide o toniche, rumorose o silenziose. Quanti aggettivi si possono trovare per descrivere le nostre ginocchia? Però voi dovete aggiungere alcune informazioni. La prima riguarda il loro aspetto, come sono fatte, insomma, come le vedete. Poi mi servono dei riferimenti anagrafici. Aggiungiamo anche il tipo di attività, o se preferite il lavoro, a cui sono sottoposti, gli sforzi che devono sostenere e anche i chili che devono sopportare. Quindi datevi subito da fare, 800 24 00 24, chiamateci qui in studio. È tornato a trovarci il professor Roberto D'Anchise, responsabile dell'unità operativa di chirurgia del ginocchio all'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Allora, che cosa mette più a rischio le nostre ginocchia? L'anatomia, gli anni, lo stile di vita, i chili di troppo o quant'altro? Allora, tutto e niente. Certamente l'elemento principale è l'anatomia. Io anche qui a volte l'ho detto, l'elemento fondamentale è che il ginocchio è fatto male, nel senso che ha delle superfici tonde, convesse, che sono la parte finale del femore, che si devono articolare con una superficie piatta, quindi insieme non possono stare. Madre Natura ha messo tutta una serie di elementi che sono i legamenti, che sono i menischi, per dare una stabilità e un meccanismo che è molto complesso, perché devono piegarsi, devono estendersi, devono ruotare verso l'esterno, devono ruotare verso l'interno. Quindi questo meccanismo comporta la necessità di molti elementi, e come nelle automobili più sofisticate, più elementi ci sono, più rischi ci sono che qualche cosa possa non funzionare. Basta che qualcosina non funzioni ed ecco che il meccanismo si altera. Un granello in questo ingranaggio, esatto. Ecco, e che lo fa saltare. Infatti, pezzettino di menisco, per esempio. Pezzettino di menisco. Ricordavo agli amici che ci stanno ascoltando che lei è stato il primo che ha effettuato in Italia il trapianto di menisco. Mille anni fa, 2002. Sono passati 15 anni, di strada ne avete, certo, fatto. Adesso che cosa è cambiato, professor? Ma Panchisa, diciamo che di sostanziale non è cambiato niente. Se parliamo del ginocchio in generale, direi che quello che si sta ancora studiando, senza secondo me una soluzione veramente reale, è come poter rigenerare la cartilagine. Tutto il resto, la chirurgia fa dei piccoli passi avanti in termini sia di tecnica chirurgica sia di impianti. Le protesi sono migliorate, sono esplose le protesi parziali, però direi che l'elemento ancora un po' incerto è come poter ricostruire una cartilagine. Gli studi vanno molto avanti, siamo avanti, però non è ancora risolto. Allora, quando tiro indietro il ginocchio, ci scrive Luca da Bologna, 38 anni, impiegato, 68 kg di peso per 1,80, non ci ha mandato la foto, tira indietro il ginocchio, lo ripiego dopo averlo disteso, il ginocchio scrocca, croc, ma non fa male. Posso dire, se ne può fregare. Perfetto. Nel senso che un rumore che non crea dolore non è mai un problema. Teniamoci lontano dai dutur. Il Luciano, più possibile. Luciano, dalla provincia di Modena, questa è già salute. Luciano, buongiorno, che buongiorno, le succede? Grazie per avermi chiamato. Sarò sintetico. Niente, circa per 2 mesi ho fatto quasi tutti i giorni 10 km a piedi. Un giorno ho fatto un po' di tratto con dei sassi, scosceso così, e ho cominciato a sentire un toc al ginocchio. Adesso 15 giorni che ero fermo, stamattina ho rifatto proprio stamattina la passeggiata e ho cominciato a risentire questo toc, toc, toc quando cammino. Non è continuo, lo fa ogni tanto, lo rifà, ma non ho nessun dolore. Allora volevo chiedere... Ribadiamo il concetto. Ribadiamo il concetto che i rumori che non creano problemi non sono mai un reale problema. Dico alla mia amica Debora, ci sta scrivendo Francesco, sì, il nostro amico piastrellista. Perché lui le ginocchia, per carità. Certo, perché c'è il ginocchio della lavandaia, quello dello scrittore, c'è il ginocchio di Francesco il piastrellista. Certo. Sì. Ci sono dei lavori che usurano di più le nostre ginocchia, delle posizioni. Beh, certo, diciamo che il piastrellista è sicuramente un lavoro importante per le ginocchia, perché rimangono a lungo in ginocchio e poi possono avere il problema sovrapponibile a quello della lavandaia. Il ginocchio della lavandaia non è un problema dell'articolazione, ma è un problema al di fuori dell'articolazione. Madre Natura, dove c'è un osso a contatto con la cute, con la pelle, come la rotula, che è la parte che sta più in superficie, ha creato delle protezioni con delle piccole borse che diminuiscono l'attrito, e questa situazione può alle volte creare un'infiammazione, un gonfiore, quello che è famoso ginocchio della lavandaia, una borsite fondamentalmente. Comunque, certamente rimanere moltissimo a lungo in ginocchio certamente è un impegno per l'articolazione. Mi sprofondai coscienziosamente in tutte e 26 le lettere e arrivai alla conclusione che l'unica malattia da cui ero esente era il ginocchio della lavandaia. Questa scoperta al primo momento mi lasciò piuttosto deluso. Mi parve quasi un affronto. Perché mai non avevo il ginocchio della lavandaia? Perché questa invidiosa eccezione? Ma dopo un po', grazie a Dio, prevalsero sentimenti meno avidi. Ebbi così la possibilità di riflettere che avevo tutte le altre malattie conosciute dalla farmacologia. E così mi sentii meno egoista e decisi di fare a meno del ginocchio della lavandaia. E parlando di ginocchia, Jerome è un classico sul ginocchio della lavandaia, probabilmente lui non aveva... Non faceva il bucato. No, ma probabilmente, essendo uno scrittore, magari soffriva del ginocchio da scrivania o quello da cinema. Cioè, quando noi stiamo a lungo seduti, a volte abbiamo proprio la sensazione, il desiderio di volerci alzare. Ecco, che cosa ci dicono? Non è tanto la posizione che crea il problema, è un problema del ginocchio che crea il dolore rimanendo a lungo seduti. Quindi se si rimane a lungo seduti e si ha un po' male all'articolazione, si ha la necessità di estendere il ginocchio, potrebbe essere un problema cartilagino della rotula. Questi pazienti, per esempio, se vanno al cinema, viene chiamato il famoso segno del cinema, che gli amici francesi avevano denominato così, vanno a cercare un posto dove possono allungare la gamba, il ginocchio, l'articolazione, e cercano il posto più di lato per poterlo allungare facilmente, come in aereo la stessa cosa. Quindi di solito è un problema che può riguardare la rotula. Professor D'Anchise, riprendiamo in esame le informazioni che io ho chiesto agli ascoltatori, abbiamo, per capire qualche cosa di più delle nostre ginocchia. Allora, abbiamo parlato di forma, ci sono delle ginocchia che sono maggiormente a rischio, ginocchia che sono, sì, che si guardano, allora, oppure stortignacole? Non è tanto la forma dell'articolazione quanto l'angolo che c'è tra il femore, che è l'osso in alto, diciamo, del ginocchio, e la tibia, che può le famose gambe a X, che è il ginocchio valgo, oppure le ginocchia che si quindi queste sono ginocchia che si toccano, oppure ginocchia che non si toccano, sono le famose tibie vare, tipo quelle dei calciatori, esatto, di chi fa grande sport. Questo ovviamente, concettualmente, la distribuzione del carico nell'articolazione dovrebbe essere uniforme. Se noi abbiamo una deviazione dell'asse, o verso l'interno o verso l'esterno, questo a lungo andare può creare un'usura dell'articolazione, usura dell'articolazione che vuol dire usura della cartilagine, che crea una situazione di tipo artrosico. Quindi l'artrosi vuol dire che si è consumata la cartilagine, che è il tessuto che riveste l'articolazione e che consente un movimento fluido tra i due capi articolari. In questo caso si può fare prevenzione, plantari, ginnastica? Plantari poco, diciamo che non appena la sintomatologia dovesse creare disturbi si fanno interventi chirurgici per modificare l'asse. I plantari servono relativamente a poco, e non è detto che il ginocchio varo o il ginocchio valgo debba essere operato. Ci sono delle ginocchia valghe o delle ginocchia vare che continuano a non creare problemi. L'unico elemento, magari visto che si parla di queste deformità, e qualche volta possono creare un'usura anche dei menischi da questo sovraccarico, e questo è un problema, perché qualche volta, se siamo costretti a fare un intervento per la parte meniscale, l'alterazione può progredire più rapidamente, perché abbiamo eliminato il menisco, che è un elemento fondamentale dell'articolazione, è un ammortizzatore. Se noi togliamo l'ammortizzatore, ciao, creiamo un problema. Allora, Simone da Pistoia, prima delle informazioni sul traffico, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Dovete aiutarmi a togliermi ogni preoccupazione. Siamo qua. Ok, io ho subito un trauma al ginocchio per una caduta. Rimasto bloccato, piegato per 2-3 mesi. Perché è rimasto bloccato, mi scusi? È dolore, cioè io sì. non riuscivo a raddrizzarlo. Sì. Non riuscivo a raddrizzarlo. Camminavo con le stampelle. Ho fatto visita ortopedica. Mi è stato prescritto anche le risonanze magnetiche, sì. Ne ho fatte ben due. Simone, un po' di sintesi, perché sennò non riusciamo a darle una mano. Ok, l'ortopedico voleva operarmi togliendomi il menisco, solo che guardando le risonanze magnetiche non riusciva a vedere niente. Non mi sono fidato, ho aspettato. A oggi, dopo 2 anni, io riesco a stendere la gamba, però ho perso, per paura di usare i miei ginocchi, la potenza muscolare. Quindi volevo sapere come comportarmi per recuperare fiducia nella mia situazione. Grazie Simone, noi andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi ritorniamo subito dopo insieme, parliamo di menisco, menischi, dovremmo usare il plurale. Brava. Alla fine. E batti, e poi di legamenti. 800 24 00 24, vi aspettiamo. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. vi presenta Cuore e Denari. Eccoci qua, siamo tornati oggi con i consigli del professor Roberto D'Anchise, il nostro esperto. Stiamo cercando di non farci mettere in ginocchio e per questo vi propongo e vi invito ad ascoltare l'ultima parte della nostra trasmissione per saperne di più sulla salute dei nostri menischi e dei legamenti, prendendo spunto proprio dalla telefonata di Simone, un trauma. Poi diamo la risposta. Adesso è difficile dare un parere reale. Qualche volta può capitare che un movimento banale, forse come quello che è capitato al signore, basta alle volte da una massima flessione estendersi rapidamente che per esempio un menisco può rompersi. Da quello che è emerso, da quello che diceva il paziente, diciamo, Simone, l'ascoltatore Simone, sì, perché non vogliamo l'elemento parlare... negativo di tutto questo percorso è che lui ha smesso di far lavorare la sua articolazione, e un elemento veramente fondamentale è la muscolatura. Il nostro ginocchio non può lavorare da solo, ha bisogno di una buona muscolatura, quindi lui probabilmente ha risolto in parte il suo problema, ma la protezione che ha creato in questo ginocchio gli ha fatto perdere tono muscolare, e il lavoro dell'articolazione aumenta pesantemente, e questo può essere un elemento di dolore. Quindi il messaggio che lei ci dà, mi faccia capire se ho capito bene, è che noi dobbiamo comunque tenere molto tonica la muscolatura, che fa da una sorta di rete di supporto, insomma, sostiene l'articolazione. Da solo il ginocchio non ce la fa. Anche pazienti che hanno un'artrosi importante devono comunque avere una buona muscolatura. Ovviamente deve essere gestito con buon senso, evitando le attività che creino dolore, ma quello che si può fare per mantenere un buon tono muscolare è fondamentale. A proposito di dolore, di recente abbiamo parlato con un suo collega, il dottor Berutto del Pini, di un problema che riguarda gli over 50, di un dolore violento che si manifesta specie soprattutto di notte, che fino a qualche tempo fa veniva interpretato come un dolore articolare, ma che oggi, proprio grazie all'impiego della risonanza magnetica, potete diagnosticare e spiegare con maggiore precisione. Una sorta di livido. Stiamo parlando dell'edema della spongiosa. Esatto, o infarto dell'osso. Rapidamente, una cosa molto importante. Perché? Perché questo edema della spongiosa spesso confonde la diagnosi e si pensa che possa essere un danno meniscale, perché è proprio da quelle parti che il dolore compare. Bisogna fare molta attenzione a non fare subito una diagnosi di danno meniscale, perché l'intervento sul menisco creerebbe un peggioramento dei sintomi, e bisogna fare molta attenzione perché un elemento importante è che la risonanza magnetica non evidenzia subito questo danno. Quindi uno ha male, fa la risonanza magnetica, il menisco è bruttino, rischi di fare l'intervento ed è un danno. Invece se il dolore non è clamorosamente meniscale e non è così invalidante, è importante aspettare almeno un mese, 3-4 settimane, e ripetere la risonanza magnetica per escludere che non ci sia questo problema. Ma per questo mettiamo le liste d'attesa. Certo. Per evitare che voi medici prendiate delle decisioni così. Io faccio all'improvviso. Molto spesso il danno meniscale è un danno degenerativo che guarisce qualche volta per conto suo, però qualche volta no. A volte io dico ai pazienti di aspettare, poi alla fine continuano a aver male, li metto in lista d'attesa, passano anche un mese o due mesi, ritorna e nella visita per il ricovero e mi dice: ma mi devo proprio far operare che sto bene? E io dico: ovviamente no. Ma quando lei parla di dolore meniscale, riesce a farci capire esattamente dov'è? In mezzo al ginocchio, bilaterale, posteriore? Allora, i menischi sono due, uno interno e uno esterno, cioè uno nella parte interna del ginocchio e uno nella parte esterna del ginocchio. Il dolore meniscale può essere o un dolore da blocco, come dicevamo prima, quando il menisco si rompe, un pezzo di menisco si sposta e blocca l'ingranaggio, oppure può essere un menisco che si è rotto e crea un dolore esattamente nella rima articolare, cioè dove il ginocchio si piega, però di solito verso la parte interna o verso la parte esterna. In linea generale, lei che è stato il primo a trapiantare il menisco cerchiamo di tenercelo, di conservarlo, ecco, nel caso è ed meglio tenerlo. È fondamentale quello che diceva prima, il menisco traumatico è da operare, che vuol dire o asportarlo o, se possibile, quando si può, ricucirlo, perché può guarire, dalle lesioni degenerative, perché le lesioni degenerative degli over 35 e over 40 possono guarire per conto loro. Quindi attenzione ad operare un menisco degenerato, perché specialmente nelle persone più anziane over 60 può addirittura peggiorare la sintomatologia. Abbiamo Giovanna al volo da Teramo, prima di chiudere un minuto. Buongiorno Giovanna, poi se nel caso ci scrive. Buongiorno, niente, volevo chiedere per mio figlio che ha un problema alla bandetella del ginocchio. Allora, bandelletta iliotibiale è una l'abbiamo. È una specie di pseudolegamento, che è il termine di una fascia esterna del ginocchio, che può infiammarsi specialmente nei pazienti che corrono. Di solito è la patologia di chi fa tanti chilometri, di chi fa corsa abitualmente. Di solito con degli esercizi precisi, sia di stretching che di rinforzo, tende a guarire con della terapia. Molto, molto, molto, molto raramente si opera. Quindi tranquilla, Giovanna, fa fare, magari affida il suo figlio. Sì, a un bravo fisiatra, fisioterapista, e nella stragrande maggioranza dei casi si risolve. Importante è, quando fa male, fermarsi dalla corsa. Ecco, di solito vale per tutte le... In linea di massima, sì. Il dolore è un elemento, è un campanello d'allarme che bisogna aver presente. Quindi se avete dolore mentre eseguite un esercizio, o fate, non lo so, vi piegate piuttosto che camminate, fermi e si aspetta a riprendere, esatto, l'allenamento. Esatto, ci si ferma 2 o 3 giorni, perché alle volte i dolori sono anche banali, cioè io dico sempre che il ginocchio ogni tanto ha voglia di far male, ma senza che ci sia un problema reale, magari passa e si può riprendere normalmente. Fa sentire che c'è. Anche, cioè, lui, sì. Se no, allora, vuol farsi notare. Ai legamenti dedicheremo una puntata doc, ma professor D'Anchise, il legamento, si dice a volte, mi sono strappato i legamenti. C'è un legamento fondamentale, che è il legamento crociato anteriore, che si rompe molto frequentemente nelle attività sportive, calcio, basket, pallavolo, sci, e di questo eventualmente ne possiamo parlare, perché c'è tutta una gamma di indicazioni di trattamento. Che passano sempre dalla sala operatoria? Spesso. O si può, spesso, vede, dipende, che alla fine... da attività e da età, da tanti elementi da mettere insieme. Ecco, nel caso, bisogna, per rimettersi in gambe, in piedi, bisogna rispettare i tempi. Non siamo, sì, tutti calciatori. Parliamo, ecco, di dopo l'intervento. Dopo l'intervento. In linea di massima 1 o 2 giorni di ricovero, 3-4 settimane di stampelle e 4-5 mesi di riabilitazione, però che non è, il paziente rimane limitato per quelle prime settimane, poi dopo può riprendere una vita normale. È fondamentale una corretta riabilitazione, per il discorso di prima, la muscolatura è importantissima, prima di riprendere le attività. Grazie al professor D'Anchise per essere grazie stato con noi, grazie a voi, ciao Deborah, noi ci sentiamo domani. Buona giornata a tutti.